Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 26. Vite in fumo. Nel punto più alto della collina, gli scavi per le fondamenta della cattedrale erano ormai terminati. Si scorgevano le tozze dita di cemento dei piloni di sostegno ergersi verso il cielo. Tutto attorno fervevano lavori, mezzi pesanti spostavano cumuli di terra spianando l'area circostante, decine di persone in tuta da lavoro erano indaffarate a cambiare faccia al luogo. Il nero si era allontanato un po' dalla zona dei lavori. Il pescatore lo stava aspettando poco lontano, saltellando impaziente da un piede all'altro. Non erano tagliati per le attività manuali e non erano di alcuna utilità a chi stava lavorando. Guardare tutto il giorno gli altri indaffarati intorno alla costruzione o ai computer li annoiava. Inoltre, se rimanevano a ciondolare lì in giro, correvano il serio rischio che sua regina li chiamasse per aiutarli in qualche faccenda da donne. Così avevano adocchiato quella siepe di cespugli, ideale per una piccola ricarica. La giornata era perfetta per un picnic speciale, sole tiepido e cielo terso. Si infilarono dietro la siepe e il nero tirò fuori dalle tasche cartine, sigarette e fatto apposta. C'era più gusto se il rito restava segreto. Tornare dagli altri e guardarli da un altro mondo era parte del piacere. Il pescatore, in realtà, non aveva alcun bisogno di una fumatina per volare sulla luna, ma le vecchie abitudini, come le vecchie compagnie, erano dure a morire. Nell'aria, sopra i cespugli, iniziò presto a diffondersi un fumo azzurrino, subito seguito da risate sguaiate. Il nero tirò fuori l'inseparabile lettore MP3, un modello con una doppia uscita per collegarci due cuffie, indispensabile nei momenti di sballo con le ragazze. Si infilò gli auricolari, passò gli altri al pescatore e con un guizzo del polso e un sorriso diabolico fece partire a tutto volume la riproduzione casuale di 2 GB di musica assortita. I Megadeth con Reckoning Day iniziarono a martellargli i timpani. All'unisono iniziarono a muovere su e giù la testa nel più perfetto esempio di headbanging sincronizzato. Il nero non smise neanche quando riprese le cartine e il fatto apposta rimasti sull'erba. Prima che la canzone finisse, il giro di giostra era già ricominciato. Nessuno parlava, ma si intendevano alla perfezione. I Megadeth terminarono con una rullata di tamburi e i Clash iniziarono a pompare Should I Stay or Should I Go, ma Nero premette Skip e passò alla canzone successiva. L'atmosfera sonora elettrica mutò radicalmente, lasciando il posto a una soffusa distesa di archi. Era l'aria sulla quarta corda di Bach. Il sole li scaldava, il fumo li cullava, si sdraiarono su pini e iniziarono ad adorare il sole, ignari del mondo. Acqua di Cane, seduto su una collina che sovrastava il cantiere, osservava senza particolare attenzione il brulicare di attività. Non poteva fare a meno di cogliere similitudini con le formiche intente a costruirsi il formicaio. Si sentiva sospeso nel tempo. L'osservatore stava osservando soprattutto se stesso e la sua vita. Sentiva di essere arrivato al culmine di una salita. Poteva osservare con distacco la sua vita dall'alto come non gli riusciva da molto tempo. Le cose erano cambiate in meglio per l'umanità, ma non erano avvincenti come prima. A volte il ricordo di qualche avvenimento lo portava quasi a rimpiangere l'epoca d'oro della Resi e il senso di amicizia che li univa nella loro grande famiglia. Da quando si erano ritrovati, nonostante la felicità, tutti avevano capito che le cose non sarebbero più tornate come un tempo. La Resi aveva avuto un senso nel vecchio mondo. Ora che non dovevano più difendersi dagli zombie, anche le loro motivazioni erano cambiate. La complicità si era dissolta per accogliere il mondo. Anna e Anna indossavano la veste candida che era diventata la loro uniforme. Con i capelli nascosti dal velo bianco era impossibile distinguerle da lontano. Sedute nel capanno di legno che serviva d'appoggio per le operazioni di progettazione, pianificavano insieme ai capi cantiere il programma per le giornate successive. C'erano molte cose che dovevano fare per organizzare la vita delle decine di persone che lavoravano alla cattedrale. Sua Regina si occupava dell'alloggio per i lavoratori e le loro famiglie. Erano state felici di ritrovarsi con quelli della Resi, ma dopo l'euforia iniziale era stato chiaro che ora era come se tutti loro vivessero in un acquario, sotto una cappa protettiva che in qualche modo li rendeva tutte uguali. Così, quello che le faceva sentire realizzate era partecipare a un'opera speciale che sarebbe sicuramente diventata la più grande testimonianza di quello che avevano vissuto in prima persona. Entrambe vivevano un'esperienza fino ad allora sconosciuta. Per la prima volta da quando erano nate, si sentivano inserite nel mondo, cullate dal mondo. Diossido era tornato a cercare la strana congrega che aveva visto in piazza e non ci aveva messo molto a trovare le Anne, Acqua di Cane e i vecchi amici della Resi. Il pescatore, estatico, subito gli chiese se si ricordava di quando il senza nome era sceso dai cieli sulla terra per salvarlo dalle acque. Il nero, imbarazzato, lo prese in disparte e gli mormorò di non tirare fuori la storia dell'ultima volta che si erano visti a casa sua. Stava molto meglio adesso, anche se fumava ancora. Acqua di Cane accolse Diossido come un salvatore, passandogli insieme a tutto il suo sollievo anche l'incarico di coordinatore informatico. Diossido a sua volta aveva parlato a lungo, spiegando loro le sue intenzioni. Poi si era immerso fra gli schermi dei computer intrecciando grafici, dati e relazioni, stendendo mappe per gli interventi, suddividendoli in base alle priorità. Sua Regina aveva accolto lui e il suo progetto come la rivelazione finale del disegno del senza nome per la cattedrale. Nella vita ci si abitua a tutto. Se abbiamo abbastanza forza e vogliamo resistere, con il tempo anche la cosa più terribile ci diventa familiare, infine è solo un'altra abitudine. Questo Diossido lo aveva sempre saputo. Non c'era niente di impossibile al mondo, tutto poteva succedere. Eppure, a volte, si stupiva di aver iniziato a considerare normale la follia in cui viveva. Si chiedeva quando aveva iniziato a dimenticare il mondo com'era fino ad alcuni mesi prima. Per esempio, quello stesso giorno, mentre stava installando alcune webcam attorno al cantiere per avere più angoli di vista sui lavori, si era accorto di divertirsi un sacco, ecco, come se nulla fosse mai successo. Era entusiasta di quello che faceva ultimamente. Nessuno più di lui poteva dialogare con gli onnipresenti congegni usati per collegare in rete tutte le loro attività. E lui, con i computer, si era sempre inteso meglio che con le persone. Li capiva, era loro amico. Era così rapito dalle cose da fare che aveva perso il senso del tempo e dello spazio. Ci stava prendendo gusto a essere sulla punta del mondo. Il nero e il pescatore non udirono il rumore del bulldozer che si avvicinava. Persi nel loro mondo, probabilmente non si accorsero di nulla neanche quando vennero ridotti a poltiglia rossastra. Furono presto tutt'uno con l'erba e il fango. Li identificarono solo dai vestiti, da frammenti di denti e da un tocco di fumo che rimase miracolosamente intatto accanto ai miseri resti. La prima a trovarli fu una delle suore dell'ordine nuovo del senza nome, mentre cercava dei fiori per abbellire gli uffici del cantiere. Suor Carmelina, che a dispetto del nome aveva pressappoco la medesima stazza di una monovolume, aveva adocchiato fra i cespugli poco lontano una chiazza colorata. Finalmente avrebbe potuto ravvivare quei locali così spogli, così vecchio stile pre-senza nome. Si aggiustò gli occhiali sul naso. Che colori curiosi! Non aveva mai visto quelle tonalità color carne. Strano che crescessero proprio fra le tracce lasciate dai cingoli del bulldozer. La sensazione di umido che lasciavano sulle dita non era quella di fresca rugiada. Si aggiustò meglio gli occhiali sul naso e avvicinò le dita agli occhi. Quei fiori macchiavano. Quelle macchie non erano profumate. Udì uscirle dalla bocca un lamento stridulo che graffiò l'aria e fece a brandelli il paradiso.